وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. O voi che credete, nelle vostre spose e nei vostri figli c'è talvolta un nemico per voi. State in guardia. Se dimenticherete, lascerete cadere e perdonerete, in verità Allah è perdonatore, misericordioso. Innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu 'indahu ajrun 'azim. I vostri beni e i vostri figli non sono altro che tentazione, mentre presso Allah c'è ricompensa immensa. Fattakullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Temete Allah per quello che potete, ascoltate, obbedite e siate generosi. Ciò è un bene per voi stessi. Coloro che si saranno preservati dalla loro stessa avidità saranno quelli che prospereranno. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Se fate ad Allah un prestito bello, egli ve lo raddoppierà e vi perdonerà. Allah è riconoscente, magnanimo. Alimul ghaib wash-shahadati l'azizul hakim. Conoscitore dell'invisibile e del palese, l'eccelso, il saggio.